Beh, come avete visto, stiamo facendo un po' di surf tra quello che è lo sguardo dell'adolescente e quello che è lo sguardo su noi adulti in relazione con gli adolescenti, proprio perché questa dimensione di relazione crediamo che sia quella in cui si costruisce significato, si co-costruiscono significati e quindi si co-costruiscono percorsi di crescita, percorsi di adultità per questi nostri adolescenti. Allora, il secondo aspetto che vorremmo portare, anzi il terzo, il primo era quello degli adolescenti, l'adolescenza al plurale, il secondo quello dello sguardo, il terzo è quello della parola. La parola intesa come gesto di comunicazione, come modalità per dire qualcosa all'esterno di sé. E ancora una volta proviamo a leggere questa nuova chiave di lettura, la parola, in due termini. La prima accezione è quella di una comunicazione di sé verso il mondo, cioè quando la parola serve per raccontare di sé, per comunicare con gli amici, per comunicare con i genitori. È un ambito che abbiamo indagato con particolare attenzione proprio perché abbiamo visto che nella relazione stanno anche i fattori protettivi. Allora, è chiaro che questa parola non possiamo intenderla solo come parola verbale o come parola scritta. Ci sono tanti altri modi oggi di agire queste parole. C'è tutto il tema dell'utilizzo dei social network, per esempio, che è un modo per comunicare di sé con immagini, con frasi, con like, con faccine, con qualcosa che a volte non è neanche verbalizzato. Ci sono i tatuaggi, ci sono i piercing, ci sono gli agiti, ci sono tanti modi che spetta a noi riuscire a decodificare come elementi di comunicazione. E allora su questo io ripasso la parola a Manuele per provare a entrare un pochettino di più in questa comunicazione, in questa parola che è lo sguardo di sé nel mondo, cioè l'immagine di me di sé che gli adolescenti proiettano verso l'esterno. Grazie. Come diceva Massimo, appunto, la parola, no? Come quello che ci raccontano i ragazzi, è l'oggetto di questo mio secondo intervento. Dapprima i ragazzi si raccontano di sé nel proprio contesto familiare e in generale nel contesto allargato attraverso i dati proprio, quindi attraverso i questionari, poi farò anche un accenno relativo a quello che è emerso del focus group, nel senso che una parte importante della nostra ricerca che abbiamo ultimato proprio pochissimo tempo fa è quella proprio dei focus group, dove siamo andati a dialogare anche con loro, quindi ad avere anche dei dati qualitativi rispetto alla percezione di sé nel futuro, proiettati verso il futuro. Allora, innanzitutto appunto si parlava di relazioni dei ragazzi con gli adulti e siamo andati un po' a indagare appunto la qualità della comunicazione, da una parte con la madre e dall'altra con il padre. Vediamo che già qui emerge una differenza abbastanza visibile, dove 8 ragazzi su 10 dicono di avere una buona comunicazione con la propria madre, percentuale che scende al 57%, quindi l'ultima colonna a sinistra per voi, anzi a destra, è appunto la comunicazione con i padri, quindi già è di cui un 15% che ci dice che ha una comunicazione problematica con il proprio padre, quindi rispetto alla qualità proprio della comunicazione, dei messaggi che gli adulti devono costruire nei confronti dei ragazzi, già qua i ragazzi ci stanno raccontando qualcosa. Queste scale invece riguardano appunto sempre in tema di comunicazione, da un lato la parental solicitation praticamente va a indagare quanto i genitori, gli adulti sollecitano il racconto da parte dei ragazzi, quanto i ragazzi sentano che gli adulti li stimolano a raccontare di se stessi, delle proprie emozioni, quindi non ha a che fare solo col controllo. Dall'altra invece la child disclosure in qualche modo va invece a vedere quanto spontaneamente i ragazzi dicono di sé o raccontano di sé su varie tematiche. E vediamo che emerge una differenza di genere a favore dei ragazzi. Quindi questi sono due fattori protettivi, comunque indicativi di una qualità della relazione tra genitori e figli. E qua appunto le ragazze hanno dei punteggi maggiori. Un'altra cosa, appunto, la soddisfazione, mi sono andato ad indagare, la soddisfazione della relazione. E in qualche modo sono, sia per il padre che per la madre, vedrete appunto queste tre domande, La terza colonna, quella maculata, diciamo, è quella dove di coloro che affermano, per esempio, che hanno sono molto soddisfatti della relazione col padre. Quindi 6 ragazzi su 10 in generale sono molto soddisfatti della relazione con il proprio padre. Di converso, circa il 20%, se vedete le prime colonnine, queste qua, quindi 2 ragazzi su 10 invece sono poco soddisfatti della relazione col padre. Emerge di nuovo, anche qui nella relazione con la madre, una maggior soddisfazione, quindi si passa o si arriva a oltre il 70% per quanto riguarda la soddisfazione di coloro che dichiarano di essere molto soddisfatti della relazione con la madre, a un 10%, 11% che riguarda invece la poca soddisfazione. Quindi comunque in generale stiamo parlando di una forte soddisfazione da parte dei ragazzi. Per quanto riguarda invece la dimensione conflittuale, che di per sé non è negativa, nel senso che poi il conflitto è in qualche modo anche può essere visto come un confronto, può essere anche generativo nella relazione, quindi non deve essere qualcosa che viene visto esclusivamente come negativo. Vediamo che 6 ragazzi su 10 si sentono poco in conflitto, di disaccordo con il proprio padre. Cosa che invece emerge in un 20% invece mediamente si vede più in conflitto, molto in conflitto col padre. Di converso con la madre c'è una maggiore percezione di conflitto in generale. Questo probabilmente è dovuto anche al ruolo maggiormente normativo che assumono i genitori, le madri. E appunto è per questo che forse non è in contraddizione con il discorso della soddisfazione. Appunto abbiamo magari un maggior grado di conflitto, ma questo non vuol dire che si sentano meno soddisfatti in relazione col proprio genitore, in questo caso con la propria madre. Sempre in tema di fiducia, in termini di proprio costruzione di questa fiducia di base che è fondamentale per le dimensioni della vergogna e dell'ansia di cui abbiamo parlato prima, siamo andati a chiedere: c'è qualcuno con cui ti senti sicuro nell'infanzia e attualmente? Ed emerge che il 91% hanno risposto che sì, avevano qualcuno nell'infanzia con cui si sentivano sicuri. Oggi la percentuale scende, quindi all'86%, quindi vuol dire che più di un ragazzo su 10 non ha qualcuno con cui si sente al sicuro, non ha un luogo sicuro relazionale, non ha un contesto relazionale sicuro. E pertanto, se lo ricolleghiamo ancora una volta al tema dell'ansia, della percezione di pericolo, eccetera, è un qualcosa che ci parla. Andando a vedere con chi ti senti al sicuro, emerge il ruolo della famiglia in maniera preponderante, dove sommando il 55% dei familiari stretti e l'11% dei parenti, quindi la famiglia allargata, arriviamo a un 65%, e abbiamo anche qui il ruolo degli amici, che è la seconda, diciamo, fonte di sicurezza, che è legata per cui il 30% delle persone dichiarano di avere un amico con cui si sentono al sicuro. Ovviamente sommando le colonne fanno più del 100%, perché per fortuna tanti ragazzi hanno più persone, più contesti in cui ci sono i ragazzi che non hanno nessuno. Di converso ci sono anche tanti ragazzi che si sentono sicuro in più tipi di relazione. Per quanto riguarda la capacità di attivarsi e di impegnarsi in famiglia, quindi in qualche modo di spendersi nel proprio contesto familiare, emerge una differenza significativa a favore delle ragazze. Quindi le ragazze hanno più fragilità, ma dall'altro emergono anche dei fattori protettivi, nel senso che comunque questi sono predittivi in qualche modo di un coinvolgimento, di un investimento sulla famiglia, che è un fattore di protezione. E allargando un po' il discorso, quindi quanto si sentono in grado di impegnarsi, attivarsi e di aggiungere quindi anche dei risultati, di investire nei vari contesti o anche su di sé. È saltata una slide. Comunque, sostanzialmente, di questa slide si racconta del fatto che i ragazzi investono maggiormente su di sé e sulla famiglia e meno sulla comunità. Ok, quindi ritorna anche al discorso dell'individualismo. Ok, pertanto. E si introduce appunto il tema del sé, come io, quanto mi sento in grado di incidere, quanto mi sento, quindi di conseguenza investo nel contesto sociale allargato. I dati appunto ci dicono investo di più su di me e sulla famiglia, perché sono contesti che in qualche modo sento di poter raggiungere e toccare con mano anche dei risultati. Su contesto allargato questa cosa non avviene. Anche qui c'era un'altra slide sui valori civici che vi racconto, dove praticamente emergeva il fatto che due dati ci hanno colpito. Praticamente la domanda era: quanto sono importanti per te una serie di cose riguardanti i valori civici? La cosa a cui hanno dato meno importanza è l'impegno politico. Okay? Dall'altra parte, in apparente contrapposizione, c'è qual è la cosa più importante per te come valore? L'attivarsi per una causa per me importante. No, da un punto di vista di un adulto, probabilmente questa è una contraddizione. Cioè, da un lato c'è l'attivarsi per una causa che ritengo importante e la politica in qualche modo la vediamo collegata. Loro ci stanno dicendo non per forza sono collegate, anzi le vediamo poco collegate. E questo ci fa in qualche modo aprire tutta una serie di riflessioni sul che cosa vuol dire per loro partecipare. Un esempio, un qualcosa ce lo può dire questa slide sui social network, dove c'erano tutta una serie di scale da cui abbiamo estratto proprio due piccole cose. Una riguarda appunto che il fatto che l'80% dei ragazzi afferma che i social media in generale sono il loro sono fondamentali per rimanere aggiornati, quindi sono la loro porta sul mondo, sono la lente da cui guardano il mondo. Se appunto ci ricolleghiamo al discorso partecipazione, a come alcuni fenomeni stanno nascendo in maniera virale, proprio in maniera anche orizzontale, se vogliamo, no? Nel senso che comunque i social network danno questa orizzontalità, quindi non c'è un qualcuno che dall'alto in qualche modo fa nascere queste cose, ma ci sono delle piattaforme molto potenti che permettono di aggregare attorno delle idee, attorno dei messaggi. Sicuramente appunto è un qualcosa che ci può fare intuire in che direzione va la partecipazione dei ragazzi. Un altro dato importante è appunto quello sopra, dove praticamente 7 ragazzi su 10 dicono che i social consentono di avere uno stile comunicativo più diretto e schietto. Posso essere più sincero, ho meno barriere. Collegando questo dato ad altre ricerche che sono state fatte, questo ha due risvolti, nel senso che emergono due profili principalmente. Uno di ragazzi che sono consapevoli dell'effetto che ha e della potenzialità che ha il sentirsi con meno barriere, quindi più liberi di poter parlare di sé e esprimere le proprie idee, e quindi in qualche modo sfruttano questa potenzialità. Dall'altro ci sono ragazzi più vulnerabili che o per eccesso di spavalderia o per magari perché si sentono impreparati di fronte a una comunicazione che da schietta spesso diventa aggressiva, si sentono più esposti. Rispetto appunto invece all'idea di futuro, di sé nel futuro, abbiamo indagato il rapporto tra giovani e società. Qui ho citato l'immancabile Greta Thunberg ormai, che sostanzialmente ci dice: c'è una contraddizione, c'è un messaggio paradossale da parte degli adulti. Da una parte ci dicono che ci sono una serie di pericoli, c'è una società in crisi e quindi dobbiamo fare qualcosa, dall'altro le abitudini non cambiano. A livello di agito c'è appunto questo paradosso. E in questo l'abbiamo messa questa citazione perché è proprio rappresentativa di quello che è emerso dalle varie discussioni con i ragazzi. Citando loro invece, vediamo che una delle loro citazioni più rappresentative appunto è: già difficile pensare al proprio futuro, figuriamoci a quello della società. Quindi per esempio è già una delle cose che emerge. Piuttosto che spesso diffusa la percezione, come dicevo prima, di non poter incidere, di avere poca voce in capitolo, e dall'altra parte appunto non vedono un progetto in cui inserirsi, nel senso che comunque dalle istituzioni vedono in qualche modo un fronteggiare una serie di emergenze ma senza disegno complessivo, e quindi anche fanno fatica a capire in che modo posso spendermi. Di conseguenza, anche proiettandosi a livello di desideri e di obiettivi, emergono una serie di cose che, se vogliamo, sono anche tutte condivisibili, ma dall'altra parte abbastanza generiche. Quindi hanno un'idea generica del futuro, di sé nel futuro, quindi il rispetto, l'uguaglianza, quindi questo è un obiettivo, piuttosto che il contrasto rispetto al razzismo, raggiungere, questo è un obiettivo, il benessere minimo a livello economico, la tutela dell'ambiente, però quindi sono tutte una serie di cose che loro in qualche modo pensano ad un livello ideale, ma fanno fatica a darvi concretezza. E pertanto il compito della comunità educante degli adulti forse è quella di aiutarli a disegnare una strada che gli permetta di dare concretezza a questo.